Filippo Penati rinuncia alla prescrizione. Dopo Sesto San Giovanni, voglio sistemare anche San Vittore. Non mi basta mai, voglio di più, non mi basta.